Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Il programma che andrà in onda fra poco si intitola Parti del discorso contadino e rappresenta un fatto piuttosto insolito, non solo nel quadro della programmazione radiofonica regionale, ma anche in quello della programmazione nazionale, che pure dedica ampio spazio al folklore regionale. La verità è che in questi programmi si dà molto spazio ai documenti etnico-musicali, alla musica folclorica popolare. Ed è inevitabile, dato che il folklore musicale è quello più usato e consumato per diversi motivi: l'intrattenimento, l'evasione, la comodità del messaggio aconcettuale, la produzione discografica, eccetera. Non si dà invece sufficiente spazio al folklore verbale, racconti, favole, indovinelli, scherzi, aneddoti, formule esorcistiche, eccetera. E questo avviene presumibilmente per due motivi: la difficoltà linguistica che rende faticosa la comprensibilità del messaggio e la concettualità del messaggio stesso. Infatti l'ideologia e la concezione del mondo nella tradizione popolare non sono di immediata e facile commestibilità. Antonio Castelli, scrittore siciliano, ha voluto cogliere nei documenti sonori che vi presentiamo oggi alcuni momenti della quotidianità contadina. Del significato e dell'occasione di questa esperienza, che riteniamo prima e unica oggi in Italia, ci parla lo stesso Antonio Castelli.